Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Negrita in diretta qui su Radio Stonata con Che rumore fa la felicità, ma naturalmente siamo felicissimi di ritrovare la nostra Barbara per nonsoloturisti.it. Barbara, ciao, buonasera e ben ritrovata. Ciao, buonasera a tutti, buonasera e buon anno, si può ancora dire perché siamo in sì, giorni. L'altro giorno avevo una disputa con un mio amico proprio se era giusto o no ancora dire buon anno, tu che dici? Ma io col fatto che siamo partiti appunto appena prima di Natale e sono tornata dopo, cioè i primi giorni dell'anno, sinceramente tante persone sono state festività, non le ho viste e lo dico, poi magari la prossima settimana basta, la prossima settimana non sono concesso. Quindi basta, dalla prossima settimana basta. Ok, segno. Oggi è l'ultimo giorno, è l'ultimo augurio. Quindi dai, buon anno anche da parte mia. Comunque, Barbara, questa sera sei qui per raccontarci un po', anzi per chiarirci un po' le idee su come organizzare un viaggio fai da te in Corea del Sud, perché chi avrà letto il tuo articolo su Non Solo Turisti, cioè la propria difficoltà è nel rintracciare le informazioni utili per questo viaggio, Barbara, vero? Sì, insomma, nel senso che non ci sono in questo momento delle guide attuali tradotte in italiano, insomma io vabbè, posso dirlo, immagino, di solito acquisto la Lonely e non c'è edita recentemente, dunque l'ultima edizione in italiano è di 4-5 anni fa, credo, e ci siamo accorti subito, avendola presa in biblioteca in prestito, che le informazioni che andavamo cercando non erano così attuali, facendo un riscontro poi con internet, con i vari siti. Dunque abbiamo iniziato insomma a leggere diversi racconti di viaggio, insomma non su un blog così, cioè non di blog così evidenti, perché sinceramente ho trovato veramente poco di edito da alcuni di loro. E cioè di poco, più che altro di utile per quello che almeno è una mia idea di viaggio, e ho letto invece dei articoli di persone che magari non hanno attenzione di blogging, ma che hanno scritto in maniera anche magari molto semplice delle informazioni utili. E poi vabbè, c'è un'edizione di Meridiani, però insomma una lista un po' di elite per andare a cercare informazioni poco pratiche, non è proprio la migliore. E poi abbiamo scaricato la in inglese in formato ebook e da lì abbiamo prelevato insomma le informazioni che ci servivano, facendo un riscontro incrociato poi con siti internet. Ecco, cioè andare a cercare attualmente una guida in lingua italiana sulla Corea non porta un frutto in questo momento. So che tra pochi mesi verrà tradotto in italiano, però insomma la nostra modalità di viaggio questa volta è stata proprio molto di ricerca di informazioni online, perché di cartaceo c'era poco. Barbara, io ti volevo chiedere, ma come mai avete scelto la Corea? Cioè il periodo trascorre le vacanze di Natale in Corea, forse fa pure lì freddino, no? Guarda, noi sono anni oramai che prendiamo, chiudiamo tutto intorno al 21 e il 22 per il mio lavoro me lo permette, e si parte e si fa il viaggio di Natale, insomma, abbastanza lontano. E dunque per noi è diventato un po' una caratteristica, insomma un obiettivo quello di fuggire un po' dal Natale tradizionale, così fino a quando insomma ci riusciremo. E perché la Corea? Perché vabbè, noi siamo molto vicini all'Asia, ci piace come continente, insomma abbiamo cercato di fare dei viaggi insomma abbastanza importanti in questo continente. 5 anni fa andammo in Giappone e ci piacque tantissimo. La Corea ci sembrava insomma una meta abbastanza vicina come immaginario, come tempi, come contrasti tra modernità e invece tradizione, rispetto al Giappone. Dunque avevamo un po' di voglia di rinnovare insomma questo nostro ricordo. E poi perché la Corea, ed effettivamente questo lo posso confermare, non è un paese attualmente molto aperto al turismo, che non vuol dire che non sia accogliente, ma semplicemente non viene preso forse ancora troppo in considerazione dai turisti occidentali. E ce ne siamo accorti immediatamente, vabbè, tanto che sono difficoltà un po' a ritrovare informazioni e a crearsi un itinerario di viaggio attraverso le notizie cartacee. E poi arrivati lì, effettivamente noi in 15 no, 13-14 giorni di viaggio, effettivamente abbiamo incontrato pochissimi occidentali e italiani praticamente, credo una di averne intrasentiti in un negozio, una ragazza, e un'altra l'ultimo giorno a Seul, camminando ho percepito un accento di Roma. È finita lì. Ma hai detto italiani, siete italiani? Cioè, sei entrato in comunicazione con loro oppure solo li hai sentiti che parlavano in italiano? No, io di solito cerco di evitare. Quando sono in questi paesi, più sono lontani, più cerco di evitare. Magari no, era, insomma, non sono andata lì a disturbare, a chiedere come mai, insomma, siete qui. Barbara, ecco, però. Una domanda che cioè, mi sorge un po' così, sentendo naturalmente quello che ci arriva dai giornali, comunque dalle news mondiali. Si sente questo attrito tra Nord e Sud Corea? Tu l'hai notato all'interno del Sud della Corea oppure no? Ma guarda, io ti posso dire che non ho avuto dei gran contatti con i locali, ecco, gli scambi umani e interculturali purtroppo non ci sono stati in questo viaggio, se non a livello di sensazioni e di osservazione, perché intanto il popolo coreano, io parlo della Corea del Sud, è poco abituato a parlare in inglese, cioè non so se non lo studiano a scuola o non siano troppo abituati poi ad esercitarlo, non che noi italiani siamo famosi per la seconda lingua, però pochissimi ci sono venuti a chiedere, che ne so, ad esempio, come vi chiamate o da dove venite, e anche nei ristoranti oppure negli hotel era, insomma, non era così scontato trovare una persona che magari una reception potesse parlare un discreto inglese. Di conseguenza non sono riuscita a fare delle domande o comunque a capire un po' la loro situazione, insomma, con il popolo confinante. Ho visto delle immagini del presidente nordcoreano messe su degli adesivi, ma non ho capito neanche quanto fosse ironica questa cosa o che cosa, insomma, Per quanto invece riguarda proprio il viaggio che avete affrontato, cioè hai detto 13 giorni in questa bellissima Corea, e che cose, quali sono state, se ce ne sono state, le difficoltà, proprio perché non c'è una guida, non c'è tanta informazione appunto su come viaggiare, su come spostarsi, su dove dormire, gli alberghi, le cose. Ci racconti un po' anche questa... Ma guarda, io direi che una volta che siamo riusciti a pianificare, poi insomma con un po' di praticità e conoscenza della lingua inglese per un livello, insomma, come quello che abbiamo noi, che non è, insomma, avanzatissimo, ma un B1 ce l'abbiamo qui a casa, tutte le nostre tappe, una volta arrivati lì, paradossalmente, nonostante loro non parlino l'inglese, nonostante la lingua sia assolutamente inaccessibile anche con i loro idiomi, tutto avviene in maniera molto spontanea e lineare, così come era successo anche in Giappone. Entri dentro un'efficienza tale in questi paesi, e razionalità, e anche, bisogna da dire, un linguaggio, una comunicazione aumentativa, cioè fatta con parole e immagini immediatamente, che tutto viene in maniera fluida, cioè per me è più difficile prendere un autobus cittadino qui a Reggio con tanti di coincidenza che provarmi a muovermi con i mezzi pubblici in Corea, dove noi ci siamo mossi assolutamente con mezzi pubblici, abbiamo naturalmente studiato il nostro itinerario qui a casa, dove è stato possibile, abbiamo prenotato i treni super veloci per muoversi tra una città e l'altra, però è stato tutto molto intuitivo, insomma, è difficile veramente sbagliarsi. Raccomando un viaggio in Corea, perché non deve spaventare il fatto che magari siete da un'altra parte del mondo o muovermi con mezzi pubblici possa sembrare chissà quanto difficile. Anche a Seul, che è una città veramente sterminata, dove io ho fatto un passo indietro quando ho visto la mappa della metropolitana, perché a quella di Londra fa un baffo, insomma, veramente un groviglio pazzesco. Quindi sì, per quanto riguarda gli alberghi, poi cioè oramai si prenota tranquillamente dall'Italia con i canali più, insomma, più conosciuti, non c'è nessun tipo di difficoltà per gestire un viaggio così. Ok. Barbara, noi ci andiamo a fare una piccola pausa pubblicitaria, poi ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo a chiacchierare ancora con te di Sud Corea. Perfetto, grazie. Viaggia con la mente e scopri nonsoloturisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Giovanotti qui su Radio Stonata con Chiaro di Luna. E ritorniamo invece a parlare di viaggi con i nostri amici di nonsoloturisti.it e per l'esattezza la nostra Barbara, che ci stava raccontando appunto come organizzare il viaggio in Sud Corea, vero Barbara? Sì, assolutamente. Ma la gente com'è della Corea? Cioè, come sono? Allora, come sono? Domanda da un milione di dollari, immagino. Ribadisco, non abbiamo avuto gran contatti umani per questioni di comunicazione, dunque ho molto osservato le persone. Infatti, perché ci sono delle foto sul tuo articolo e poi comunque ne parli in un piccolo trafiletto della gente, quindi... Allora, noi ai loro occhi eravamo completamente trasparenti, che non voleva dire che ci ignorassero, ma... cioè non erano particolarmente curiosi, anzi di leggero, al contrario di tanti altri posti dove siamo stati, dove comunque magari ti osservano, se non altro perché hai dei tratti fisici diversi, sei vestito in maniera leggermente diversa. E dunque direi, insomma, persone riservate, mi viene da dire. Mm-hmm. Per quanto riguarda usi e costumi, allora, se noi siamo dipendenti dal cellulare, loro lo sono alla millesima potenza. Io non credo di aver visto ad oggi persone così concentrate sull'immagine di se stessa al telefono. E in metropolitana cercavo un attimino di sbirciare per capire cosa stessero guardando. Le donne sono molto vanitose, le ragazze hanno questa tendenza, l'avevo già letto, visto anche dei video prima di partire, questa tendenza a schiarirsi molto la pelle, e ci sono tantissimi negozi di mascole di bellezza, ma quantità industriali, non ho mai visto profumerie così grandi con un numero così esponenziale di mascole di bellezza messe dentro queste bustine, e loro sono sempre lì effettivamente anche in momenti di pausa in metropolitana a truccarsi, schiarirsi, guardarsi, fotografarsi. Quindi cioè, perché anche c'è una foto, proprio quella foto della metropolitana, dove vedo tanta gente tutta china col capo a guardare dentro il proprio smartphone. Assolutamente, questa è l'immagine chiave, proprio loro sono sempre così, anche in mezzo alla strada parlando, cioè sono sempre comunque, cioè se sono in due in realtà poi sono in quattro, perché c'è sempre comunque un doppio cellulare, cioè un cellulare da parte dell'altra che li accompagna e sono iperconnessi. Ma perché pure si legge nel tuo articolo che la connessione è libera dappertutto, cioè la trovi facilmente. È un paradiso da quel punto di vista. Infatti noi eravamo in dubbio se, perché attraverso il sito dell'ufficio del turismo avevamo visto che c'era la possibilità di prenotare una SIM card, allora qualche volta noi lo facciamo, insomma, lì ho detto ma no dai, non prenotiamo, ho detto vediamo un po' come la situazione, al massimo poi la compriamo là. Effettivamente non abbiamo sbagliato, perché il wifi è praticamente libero ovunque, cioè negli autobus di linea urbana, negli autobus di linea interurbana, nei TXT che sono i treni super veloci, nelle metropolitane, dentro i vagoni delle metropolitane, cioè esci fuori comunque, c'è sempre un negozio commerciale che te lo lascia libero, e comunque anche i vari... diciamo le varie reti pubbliche sono facilmente ritrovabili, ma al di là di questo, insomma, cioè, o comunque complice questo, non so, loro sono veramente iperconnessi. Non so se è il fatto che comunque Samsung sia la loro e sia veramente una dei leader mondiali del mobile, però effettivamente interagisce tantissimo con la loro vita. Chi non è preso a guardare se stesso e a postare la propria immagine è lì che comunque guarda in maniera maniacale foto su Instagram, uno dietro l'altro mettendo dei like, oppure giochini. Ecco, anni fa una volta in metropolitana si trovavano le persone che magari leggevano dei libri, che magari potevano essere anche tipo fogliettone alla Harmony eccetera, però c'era un contatto con la carta, una storia, cioè lì ora non c'è più niente del genere, ma anche da noi, però veramente io credo che sia veramente un problema per molti di loro. Barbara, ma prima parlavamo, ti ricordi, tra me te fuori onda, del cibo, Del cibo nostro, cioè del mangiare nel periodo di Natale. Là, il cibo, sì. Come fa? Che cosa, com'era? Allora, io fuori onda ti ho detto che fuggo il pranzo di Natale, cioè proprio che non sopporto più questa overabbondanza di tradizione culinaria italiana. Però devo confessare che stando là ho sognato tanto a un certo punto un bel cotechino con qualcosa. Perché? Che somigliasse qualcosa, insomma, che somigliasse comunque alla nostra cucina un po' tradizionale. Perché allora io non l'ho amata tantissimo, ma perché è molto carica di peperoncino, ecco. Intanto ho citato effettivamente i calabresi, forse loro sarebbero bene qua. Come molti paesi dell'Asia non usano il sale, dunque quello che è spezia per loro è il peperoncino, dunque già questo insomma è un po'. Però ci sono poi anche dei prodotti non spicy, eccetera. C'è una grande varietà di verdura, di pesce, di carne, condizioni igieniche molto buone, devo dire, insomma, non proprio in linea che da noi, però assolutamente sicuro il cibo. Però insomma, cioè, poi gli accostamenti che fanno non è che sia proprio il massimo, cioè meno neutra di una cucina giapponese sicuramente. La cosa carina è che loro cucinano tantissimo all'esterno, anche le locande chiuse all'interno, no, in realtà la cucina esterna, cioè vedi la signora che cucina tipo sul marciapiede con le varie vaporiere, perché loro cucinano molto al vapore, e poi tu ordini, entri dentro e mangi, ma in realtà la cucina la vedi fuori, anche con questo freddo terribile. E alla fine si trovano cose da mangiare comunque abbastanza appetibili. Io mangiavo una specie di raviolo con dentro due ripieni diversi, c'erano pesce e carne, oppure anche il kimchi, che è il loro pranzo, la loro verdura insomma più conosciuta, che è una sorta di cavolo poi rifatto con delle spezie. E poi insomma si trovano tante cose insomma da poter mangiare. Ci sono delle grigliate anche molto appetibili e abbastanza caratteristiche, fatte su dei tavoli con il barbecue incorporato dentro, che la signora ti cucina insieme con la tua collaborazione sul suo tavolo di ristorante. Però insomma non è che posso dire andare in Corea per mangiare, Barbara. Poi così andiamo a chiudere, e invece cosa da vedere in questo Sud Corea? E soprattutto una cosa che ti ho chiesto inizio puntata e forse ti è sfuggita: il clima. Oh, allora, diciamo subito il clima. È stato tanto freddo, ma noi lo sapevamo, perché allora questa, la Corea è da visitare come il Giappone, d'altro canto, nel periodo primaverile, non solo perché si beneficia di un periodo insomma mite eccetera, ma perché poi c'è la fioritura della natura, ai peschi eccetera, che veramente dalle foto che ho visto incorniciano benissimo queste città con questi contrasti di modernità e tradizione. Però io non ho il periodo primaverile, non riesco a prendere delle ferie, dunque non volendo andarci d'estate dove fa veramente caldo, troppo caldo, ho deciso di andarci d'inverno, ed effettivamente è stato freddo, non abbiamo trovato mai la neve, ma a Seul, che è a nord e a ridosso delle montagne, abbiamo trovato giornate con anche meno 12. Dunque gli itinerari, se uno decide di farli d'inverno come abbiamo deciso noi, sono da considerare magari itinerari metropolitani che permettano di stare fuori per un certo periodo, ma anche dentro, dunque non so, andare a visitare un centro commerciale, poi un mercato al chiuso, poi uscire a farsi una passeggiata nelle ore più calde. Bisogna, ecco, un attimino ponderarlo. Rispetto all'itinerario, io ora ne parlerò meglio in posti specifici, però infatti, perché immagino che continuerai a venirci a trovare per parlare di Sud Corea, però una piccola anticipazione, così poi ti saluto. Esatto, cioè le tre città che abbiamo visitato sono state Jeonju, Busan e Seul. Tutte e tre città che hanno veramente tanti aspetti culturali e metropolitani interessanti da vedere. Quindi, Barbara, ci verrai a trovare presto, immagino. Sì, ora faccio un attimo mente locale e penso che farò altri due posti, uno quindi, dedicato a Seul e un altro dedicato a viaggiatori di Radio Stonata. Barbara ritornerà qui su Radio Stonata a raccontarci appunto più in dettaglio il viaggio in Sud Corea. Per adesso, Barbara, esatto. Che dire? Grazie e a prestissimo. Va bene, a presto, ciao. Ciao Barbara, grazie.